Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo in regia con noi Fabio Cantadori, come sempre Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli di oggi. Salute sessuale maschile dalla A alla Z, i sintomi da non trascurare, i controlli da fare e le terapie per risolvere i problemi. Shatsu, un tocco di benessere. Programma di screening, si può fare di più. Oggi affrontiamo un argomento delicato di cui spesso si preferisce non parlare per timore, paura, imbarazzo, vergogna. Parliamo, come avete sentito dai titoli del nostro sommario, dei disturbi sessuali maschili, problema dei grandi numeri e anche dai grandi rischi, perché ormai non ci sono più dubbi, le ricerche lo dimostrano e i dati parlano chiare. La salute sessuale di un uomo è lo specchio della sua salute generale. Ne parliamo oggi con il professor Vincenzo Gentile, direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma e presidente della Società Italiana di Andrologia. Professore, bentornato, grazie. Grazie, buongiorno. In linea con noi abbiamo anche il dottor Giuseppe Lapera, andrologo presso l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Professor Gentile, i disturbi sessuali colpiscono una grande percentuale della popolazione maschile. Circa il 40% degli over 40 soffre di disfunzione erettile. Ma il problema viene spesso taciuto o riferito con grande ritardo. Tutto questo, professor Gentile, può costare caro. Ci spiega perché? Sì, diciamo che un uomo ci impiega di solito da 2 a 3 anni prima di prendere coscienza o di ammettere che è un problema di disfunzione erettile. E questo è naturalmente legato, qualcosa si sta modificando, sta cambiando, questo è legato a vecchi tabù, a vecchie riserve, però fortunatamente si sta diffondendo questa cultura andrologica e che la salute sessuale, come bene diceva lei prima, possa costituire il barometro della salute generale, è un dato che si va acquisendo. È molto importante infatti, perché il disturbo dell'erezione, per esempio, è un disturbo che può essere determinato da un'alterazione del sistema vascolare. Il sistema vascolare alterato può andare a colpire le coronarie e quindi essere poi sfociare in un infarto, in un ictus. Di solito sono delle persone che hanno un diabete e lo trascurano, e facilmente un diabete si complica con una disfunzione erettile, una pressione alta non trattata. Sono tutti aspetti che finiscono con influire. Non dimentichiamo il sovrappeso, l'obesità, la vita sedentaria. Dottor Lapera, con lei invece oggi vorrei occuparmi dei giovani uomini, dei ragazzi. Lei ha presentato da poco i dati di una ricerca che dimostra chiaramente come i ragazzi, lasciati soli a risolvere i loro problemi sessuali, corrono un rischio maggiore rispetto ai loro coetanei di fare ad esempio uso di droghe. Sì, effettivamente questi sono i risultati di questa ricerca che noi adesso presenteremo a un corso che faremo, un convegno a Roma presso l'ospedale San Camillo. E i risultati di questa ricerca indicano che il 30% dei ragazzi che inizia a usare l'eroina lo fa perché vive un disagio sessuale, è una sorta di automedicazione. Sì. E questa è la conseguenza del fatto che noi lasciamo da soli gli adolescenti a vivere la frustrazione che i primi insuccessi sessuali possono provocare. E li lasciamo da soli, senza informazioni, senza la presenza di una persona che gli vuole bene ad aiutarli e a dargli il giusto consiglio. Per cui si ritrovano con i loro coetanei dove c'è un meccanismo di bullismo in cui chi ha un problema viene marginato e quindi con più facilità possono fare delle sciocchezze. Certo, bisognerebbe fare della prevenzione con dei corsi sulla salute sessuale, ma in attesa che le istituzioni si muovano e acquisiscono una sensibilità particolare su questi temi, io penso che un genitore ha la possibilità o di portarlo dall'andrologo dove può iniziare un certo tipo di discorso, oppure con una certa discrezione fargli capire che se c'è un problema può essere aiutato. Quindi non domandargli solo se ha fatto i compiti o se si è lavati i denti, ma affrontare anche le problematiche relative alle prime esperienze sessuali. Intanto io vi ricordo il nostro numero verde, potete approfittarne per parlare dei vostri problemi, per anche parlare con il dottor Lapera eventualmente di problemi che avvertite, pensate possono essere preoccupare il vostro ragazzo. Il nostro numero verde è 824 0024, mentre i messaggi potete mandarli al 349 238 6666. Professor Gentile, abbiamo detto che gli uomini spesso ritardano, spesso prima di andare dal medico aspettano, ma indubbiamente questo è un po' una mancanza di cultura, ma ci sono anche dei disturbi che non preoccupano molto perché vengono liquidati come naturale conseguenza degli anni, oppure imputati ad un eccesso di stress, o ancora provocati da motivi psicologici. Mi riferisco alla disfunzione erettile che lei ha citato, anche all'eiaculazione precoce. Allora, questi aspetti sicuramente vanno tenuti in considerazione, ma possiamo individuare dei parametri che ci aiutino a capire quando il problema è patologico? Certo, io direi già con le definizioni ci possono aiutare. Se parliamo di disfunzione erettile, noi dobbiamo ricordare che la capacità di ottenere e mantenere un'erezione valida per un rapporto sessuale soddisfacente per entrambi i partner, la coppia. Sì. È evidente che un episodio occasionale o in situazioni particolari non riveste un particolare problema, ma un episodio, una difficoltà che si ripete nel tempo, nel giro di qualche mese, e con un soggetto che ha dei fattori di rischio, quale il diabete, l'ipertensione, il sovrappeso, la vita sedentaria, le abitudini alimentare come un eccesso di alimenti che hanno un'azione negativa, oppure il fumo, tutto questo deve spingerlo, deve fargli prendere coscienza che allora siamo in una situazione che sta diventando patologica, che è patologica. Per quanto riguarda l'eiaculazione, io direi che è bene tenere presente che cosa si intende. In maniera molto semplice, è definita precoce l'eiaculazione quando avviene entro circa un minuto dalla penetrazione vaginale e quando chi ne soffre non ha la capacità di ritardare l'eiaculazione stessa. Questa condizione assume poi il quadro di una vera e propria disfunzione sessuale quando, con dei riflessi importanti, quando la persona che ne è affetta trae da questo uno stato di ansia, un sentimento di frustrazione e di inadeguatezza. Certo. Per cui tende a rimandare o a non vivere il momento di intimità con la propria partner. Dottor Lapera, nel corso della vita l'uomo, come la donna, attraversa quattro fasi che possono essere paragonate, diciamo così, alle stagioni. Ciascuna di queste fasi è caratterizzata da abitudini di vita e anche da determinati problemi. Conoscerli, io credo, in questa trasmissione, che vuole essere anche un invito agli ascoltatori a farsi controllare, a parlarne con il medico. Quindi conoscere questi problemi può essere utile a prevenire eventuali disturbi e intervenire nel caso precocemente. Allora, vogliamo ripercorrere un po' lo schema delle stagioni, le tappe della vita di un uomo, per individuare là dove possono manifestarsi i problemi e i controlli da fare? Iniziamo dalla primavera, quindi dalla nascita all'adolescenza. Diciamo che qui dobbiamo distinguere due situazioni completamente differenti. Una è quella dalla nascita, nei primi anni di vita. Lì abbiamo una ottima rete nazionale in cui le problematiche relative alla discesa del testicolo e allo sviluppo dei genitali riconosce uno specialista che è il pediatra, ben radicato sul territorio, per cui tutti i bambini vengono sicuramente seguiti bene. Il sì. problema nasce nel problema dell'adolescenza dai 12 ai 18 anni, che si è ancora di più aggravato con l'abolizione della visita di leva, per cui non c'è sul territorio nazionale qualcuno che sistematicamente possa poi seguirli come avviene con le ragazze, che c'è il ginecologo. Ci vorrebbe sì. la figura dell'andrologo e sviluppare questo tipo di professionista. Nel periodo dell'adolescenza quello che andrebbe controllato sistematicamente è il regolare sviluppo puberale, cioè che effettivamente faccia uno sviluppo normale e regolare. Un altro aspetto importante nell'ambito di questo sviluppo puberale è il problema del varicocele. Queste sono le grosse cose. Poi naturalmente ci sono tanti altri aspetti, ma un'elencazione delle singole malattie diventa difficile. No, certo. Già questi due aspetti, cioè lo sviluppo regolare e il varicocele, sono due aspetti molto importanti. Andiamo all'estate, diciamo dalla pubertà ai 40 anni. Ecco, dalla pubertà e intanto lì c'è il problema dell'inizio delle prime esperienze sessuali e delle frustrazioni che i ragazzi possono avere nel corso del loro sviluppo e soprattutto alcune aspettative realistiche, perché molti ragazzi pensano di avere un problema perché hanno dei modelli non veri. Sì. E quindi penso che dovendo raggiungere quel modello, sentendosi un po' di meno, abbiano un problema, insomma. Certo. E quindi queste aspettative irrealistiche è veramente una trappola micidiale per gli adolescenti, perché li può spingere a fare delle sciocchezze se non aiutati, se poi magari non hanno vicino una persona giusta. Per quanto riguarda questo periodo, altro aspetto importante è il completamento della maturità sessuale con un controllo della fertilità. Ecco, questi sono due aspetti, quindi le prime esperienze sessuali e il controllo della fertilità. Andiamo all'autunno, dai 40 ai 60, dottor Lapera. Controlli, i sintomi che devono essere considerati come dei campanelli d'allarme? Beh, per quanto riguarda questa fascia d'età, tutte quelle ruotano intorno alle malattie che inducono i disturbi sessuali. Cioè il disturbo sessuale in questa fascia d'età è molto spesso il campanello di allarme di una malattia più importante, come aveva accennato prima il professor Gentile, può preludere a situazioni molto, molto preoccupanti che potrebbero essere invece prevenute. Quindi naturalmente vanno fatti anche dei controlli medici, come il controllo della pressione, il controllo della glicemia, dell'assetto lipidico. Ecco, questi sono gli aspetti più rilevanti. Questi aspetti sono validi naturalmente anche per l'inverno dai 60 in avanti, vero dottore? Diciamo che a cavallo tra questa fascia d'età, dai 50 in su, è importante fare un controllo per la prostata. Sì. Perché indubbiamente lì, attraverso una serie di esami del sangue, ne cito solo uno, il famoso PSA, si può fare una diagnosi precoce del carcinoma prostatico e prevenire una serie di disturbi che derivano dalla prostata. Però in generale il problema fondamentale è che un'attività sessuale, questo è l'affermazione, è il barometro della salute generale. Questo attraverso un po' tutte le fasce d'età. Allora, restate con noi, oggi ci occuperemo della vostra salute sessuale, no? Mi riferisco agli ascoltatori uomini, ma naturalmente la trasmissione è aperta anche alle nostre ascoltatrici. Sono spesso loro infatti che convincono il loro partner a rivolgersi al medico, quindi per qualsiasi dubbio, se volete saperne di più, contattateci al nostro numero verde 800 24 00 24. Stanno già arrivando molti messaggi e noto che uno dei problemi che viene citato di più è il varicocele. Ne parliamo tra poco, quindi chiamateci e scriveteci. Una mela al giorno. Vi capita di svegliarvi al mattino più stanchi di quando siete andati a letto la sera e di avere la sensazione a metà giornata di essere già in riserva, senza forze? Allora oggi proviamo a tirarci su, a sciogliere un po' le tensioni, a recuperare energie a tono, magari a scacciare via qualche dolore, il famoso cerchio alla testa che ci viene quando siamo stanchi, e proviamo a farlo con lo shiatsu. Lo shiatsu è una tecnica giapponese che si basa proprio sulla pressione delle dita, quindi liberate le mani, toglietevi i guanti se ce li avete, liberate le dita, perché oggi impareremo proprio a usarle con dei semplici esercizi per il nostro benessere. Ci aiuta il dottor Fulvio Palombini, medico chirurgo, docente universitario alla Sapienza di Roma e direttore della scuola Shiatsu di Roma. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. È un piacere sentirvi, è un piacere poter aiutare gli amici che ci ascoltano. Lo shiatsu è una tecnica molto semplice e anche molto efficace in molti disturbi, soprattutto sul dolore e sulle tensioni dei muscoli. Spesso la notte porta consiglio, ma spesso la notte porta anche molta tensione, perché il corpo si raffredda, si ferma e quindi a volte si dorme scomodi, con cuscini spesso non idonei alla nostra colonna cervicale, alla nostra testa, direi. Quindi spesso la mattina ci si alza con fastidi, con dolori, con disturbi, con occhi gonfi. E allora cosa fare? Un bel bagno caldo, se è possibile naturalmente, e poi sedersi 5 minuti davanti allo specchio e con le mani, con il polpastrello, le quattro dita delle mani, il mignolo, il medio, l'anulare, l'indice, si preme sul trapezio, il muscolo trapezio, è quel grande muscolo che sta alla base del collo, un punto di grande tensione del corpo. Con la mano destra sul trapezio sinistro si passa davanti al corpo e con le quattro dita si preme con grande energia fino a sentire un dolore quasi sopportabile, un dolore piacevole. Se si continua così per 2-3 minuti, vi assicuro, prima sulla parte destra, poi sulla parte sinistra e viceversa, per 5 minuti vi garantisco che il dolore può passare, passa, e quindi la giornata diventa più bella. Dottor Palombini, questo è un esercizio da fare all'inizio della giornata, dopo un bagno caldo se è possibile. Esatto. Andiamo alla giornata in ufficio. Ci sono dei momenti in cui uno guarda l'ora e dice non ce la posso fare, sì, non ce la faccio ad arrivare a stasera. Non riusciamo a concentrarci, siamo appesantiti, si dà la colpa alla stanchezza, magari alla pausa pranzo che è stato un pochino più pesante. Insomma, non sappiamo che cosa fare e come tirare avanti. Eppure gli impegni ci vogliono pronti e svegli. Sì. Possiamo usare lo shiatsu anche in queste occasioni? Perché no? Lo shiatsu office, l'office shiatsu come si chiama negli Stati Uniti, va molto di moda, lo stiamo provando anche qui a Roma in diverse strutture importanti, quindi io credo che valga la pena provare, sempre seduti comodi, sempre molto seduti comodi e con delle pressioni, sempre le quattro di... Lo shiatsu fondamentalmente si fa con il pollice, ma quando si fa auto shiatsu, che è una tecnica che si usa molto per invigorirsi, per cercare di togliere queste tensioni, spesso si usa le quattro dita delle mani escluso il pollice, quindi viceversa, quando l'operatore agisce il pollice, quando si fa autoshatsu, le quattro dita escluso il pollice, e si preme dietro la nuca, proprio dietro le orecchie, c'è un osso che si chiama mastoide, è un osso dove si attaccano molti muscoli, un muscolo molto importante, dove c'è tutta una circolazione che passa e arriva alla testa. Dietro quell'osso bisogna premere anche qui con una certa energia, prima con una mano, quindi prima su di un lato, poi sull'altro lato e poi tutte e due le mani insieme. Ripeto, la tecnica importante è di riuscire a fare una pressione così energica da evocare una sensazione dolorosa ma sopportabile, e quello è proprio la soglia dello shiatsu, lì è il trucco dello shiatsu, lì lo shiatsu inizia a diventare terapeutico. Dottor Palombini, la ringraziamo per essere stato con noi, mi sembra di avere anche imparato, io intanto che lei ci spiegava gli esercizi li provavo. Bene. Ho capito, se ho capito io, guardi, lei deve essere molto chiaro e quindi le diamo appuntamento presto, perché ci aiuterà soprattutto anche in questi giorni di festa ad aggiungere un tocco di benessere alle nostre giornate. Dottor Palombini, buona giornata. Grazie, buon grazie shiatsu. A tutti. Grazie. Pronto soccorso. E noi torniamo dall'andrologo, uno specialista con cui gli uomini hanno poca confidenza, ma iniziano a prenderla. Per rompere il ghiaccio io ne ho invitati addirittura due, il professor Gentile, che si occuperà degli uomini maturi, di chi ha superato gli ante, e il dottor Lapera, cui affideremo invece le domande e i problemi dei giovani uomini. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, abbiamo già subito in linea Antonio da Salerno. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere... quando può incidere l'uso del farmaco per il controllo pressorio sull'argomento in oggetto? Grazie. E cosa si può fare, immagino? E come si possono sostituire, chiaramente, se quelli incidono in maniera particolare? Grazie, l'ascolto per la radio. Grazie Antonio. Professor Gentile. Sì. Immagino che il nostro ascoltatore sia essendo iperteso, glielo passo d'ufficio, perché abbiamo detto che gli uomini maturi, gli uomini sono di sua competenza. Sì, ma è un problema, una domanda molto pertinente, molto giusta. Sicuramente possono influire, hanno un'azione diretta negativa, fermo restando la loro importanza e la loro necessità per curare l'ipertensione, quindi assolutamente l'ipertensione va curata, perché già lei può determinare un danno a livello vascolare alterando l'endotelio e quindi poi conseguentemente provocare l'alterata funzione. Sì. E quindi la terapia è importante, però la stessa terapia ha un'interferenza negativa con un duplice meccanismo. Uno è intrinseco al tipo di azione farmacologica del farmaco, è un concetto difficile, però naturalmente ogni farmaco antipertensivo può agire con meccanismi diversi e quel meccanismo può avere un'influenza negativa di per sé sulla funzione sulla funzione che conduce all'erezione, e con un effetto sistemico che è l'abbassamento della pressione, quindi arriva con minore flusso il sangue nei corpi cavernosi. Quindi è duplice il meccanismo. Sì. Alcuni farmaci sono più, diciamo, hanno più responsabilità determinare questo. I beta bloccanti sono tra questi, così come anche altri farmaci. Si sperava molto nell'arrivo dei sartanici, cioè una nuova categoria di antipertensivi che sembrava potessero svolgere un'azione positiva. Invece nella pratica clinica questo non si verifica. Allora cosa possiamo dire? Che la sostituzione del farmaco si può procedere così: sostituire il farmaco che si prende e far sostituire, però questo deve essere fatto con un controllo medico, certo, con uno specialista, perché bisogna capire qual è il farmaco che può andare bene in quel tipo di paziente in sostituzione di quello che dà un maggiore effetto negativo. Questo è molto importante. Quindi parlarne con il medico, e aggiustare la terapia. E se questo non, ove questo non fosse sufficiente, si può ricorrere alla terapia per la disfunzione erettile, i famosi inibitori delle fosfodiesterasi 5, i nomi classici che tutti conosciamo. Viagra, Cialis, insomma le famose pilloline dell'amore, così sono state essere associate laddove la sostituzione o la modifica degli stili di vita non sono sufficienti ad avere una buona erezione. Allora noi adesso tutto questo va fatto con naturalmente sempre con il medico. Questa è un'occasione in più per consultare il medico e rompere questo tabù. Salute sessuale maschile, questo è il tema di oggi, che vuole essere anche un invito per tutti coloro che soffrono di un disturbo che riguarda l'apparato sessuale riproduttivo a rompere ogni indugio e a consultare il medico, perché la salute sessuale è lo specchio della salute generale. Nell'attesa delle vostre chiamate 800 24 0024 facciamo un bilancio sull'attività di screening in Italia. Ci sono dei dati interessanti che vengono proprio presentati oggi dall'Osservatorio Nazionale Screening, e in linea con noi abbiamo il dottor Marco Zappa dell'Osservatorio Nazionale Screening. Dottore, buongiorno e benvenuto. Grazie. Dottore, iniziamo a capire di che stiamo parlando. Possiamo dire che lo screening è un intervento sanitario organizzato che si attua su una popolazione sana o apparentemente sana ritenuta a rischio di sviluppare una malattia. Consiste in pratica nell'offerta attiva, gratuita e sistematica di un test di primo livello per la diagnosi precoce o preclinica della malattia e eventualmente di esami di approfondimento ed eventuali trattamenti per le persone che risultano positive al test. Giusto, dottore? Esattamente, esattamente. Dottore, quali sono i programmi di screening attualmente offerti e qual è la loro risposta? I programmi di screening attualmente offerti riguardano lo screening mammografico, che è la prevenzione del tumore al seno, che viene offerto alle donne fra i 50 e i 69 anni di età, con esame da ripetersi ogni 2 anni. Poi c'è lo screening cervicale, quello con il PAP test, che viene offerto alle giovani e meno giovani donne fra i 25 e i 64 anni di età, ogni con intervallo triennale. E poi più recentemente lo screening colorettale, che in grande maggioranza delle regioni viene fatto attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci e fra i 50 e i 70 anni di età, con intervallo biennale. Dottor Zappa, nel corso del 2007 sono state spedite 8 milioni di lettere. Come abbiamo risposto? A queste 8 milioni di lettere hanno risposto poco meno della metà, 3.700.000 persone, donne e uomini. E questo è da un lato un risultato incoraggiante, però certo segnala ancora un limite di partecipazione, e questo è un peccato, perché questi esami sono esami di scarso disturbo per la persona e che possono determinare un beneficio di salute assolutamente importante, e sono esami in cui la prova di efficacia nel raggiungere l'obiettivo di salute è provato da tutta l'evidenza scientifica internazionale. Dottor Zappa, quindi possiamo dire si può fare di più. Invito i nostri ascoltatori per ulteriori informazioni a navigare sul sito dell'Osservatorio Nazionale Screening. Troverete anche il modo di avere una risposta ai vostri dubbi, alle vostre domande, e ci auguriamo che nella prossima relazione possiamo arrivare ad una quota di adesione e di partecipazione maggiore. Dottor Zappa, la ringrazio. Grazie a voi. E continuiamo ad affrontare il tema di oggi, salute sessuale maschile, 824 0024. Abbiamo Francesco che ci chiama dalla provincia di Varese. Buongiorno Francesco, benvenuto. Buongiorno a voi, salve, grazie per avermi dato la possibilità. Volevo solo chiedere, in linea di massima ho già avuto una risposta. Io ho avuto un aumento di peso e sto molto seduto, per cui ho qualche problema, non con la prima erezione, perché il primo rapporto, però quando ho bisogno di, ho voglia di un secondo rapporto, proprio incontro delle grosse difficoltà. Penso proprio che il fatto del star seduto e del muovermi poco, appunto, possa essere, volevo una conferma di questa mia... questa sua ipotesi. Dottor La Pera, possiamo, l'ipotesi di Francesco è corretta? È corretta, ma va aggiunto alcune cose, perché sì. Il lavoro dell'andrologo è un lavoro un po' particolare rispetto agli altri medici, nel senso che oltre a seguire dei protocolli e dei diagnostici, quello che è importante è capire nel setting medico quali sono le aspettative, in che contesto si svolge l'attività sessuale, perché molto spesso si hanno delle informazioni sbagliate e quindi si ritiene di non essere nella norma, perché quello che si cerca di fare non è esattamente quello che è fisiologico fare. Sì. E quindi questo non è propriamente un fatto medico, ma quello che si chiama il counseling, cioè l'aiuto, il consiglio, è importante e si può svelare solo in quel setting medico, e quindi questo vale un po' per tutte le domande che possono arrivare su questi aspetti. Sì. L'altro aspetto invece più specifico, chiaramente il sovrappeso e l'obesità sono dei fattori che incidono negativamente, perché vanno a incidere sul metabolismo delle molecole che poi vanno a agire sul meccanismo dell'erezione, e quindi si è proprio visto che la riduzione del peso, in particolare con l'attività fisica, è proprio uno degli elementi più importanti nella conservazione nel tempo dell'attività sessuale, molto di più della sospensione del fumo. Quindi... questo è uno studio americano che ha confermato i dati sul fumo, che è negativo, ma la riduzione di peso attraverso l'attività fisica ha una potenza ancora maggiore, visto, usando questa parola, nel conservare nel tempo efficiente il sistema dell'erezione. Quindi a Francesco il consiglio è di correggere un po' il suo stile di vita. Il consiglio è duplice, è quello di parlare del suo problema con il suo andrologo di riferimento, perché sì, in quel setting lui potrà spiegare molto meglio che cosa è, quanto è importante questo secondo rapporto, che significato attribuisce nella relazione di coppia, e dal punto di vista medico tutte quelle norme igieniche per la riduzione di peso. Professor Gentile, io vorrei rispondere a tanti ascoltatori che ci scrivono per avere notizie sul varicocele, che per mancanza di controlli, il dottor La Pera sottolineava appunto, ormai non c'è più la visita di leva, non viene individuato se non quando è decisamente sintomatico. Vogliamo dare una definizione? Cerchiamo di capire quali rischi può comportare una mancata diagnosi? Sì, sicuramente il varicocele primitivo, quello che insorge in età adolescenziale, può determinare in oltre il 50% dei pazienti in cui è presente disturbi della fertilità. Sì. Tenga presente che il varicocele è presente in una percentuale che va dal 25% al 30%. In questa percentuale più del 50% può poi avere alterazione del liquido seminale, degli spermatozoi, e per quindi? Cui si creano problemi di fertilità, soprattutto oggi che si tende ad avere figli in età tarda, cioè ci si tende a sposare, a convivere o a fare questa scelta della paternità dopo i 40 anni. Mentre prima si avevano dei figli nella fascia d'età che andava dai 20-25 ai 30-35, per cui anche in presenza di un varicocele si riusciva ad avere un primo figlio, perché il danno non era totale, il danno che questa patologia, questa condizione morbosa determina, ma man mano che il tempo passa il danno si aggrava fino a un punto in cui non c'è più la possibilità, intervenendo sulla patologia, di ritornare, di avere la restitutio ad integrum dell'organo, cioè a ripristinare la funzione dell'organo. Il varicocele è il reflusso del sangue venoso nella vena testicolare. Come in ogni organo, il sangue arriva con le arterie e va via con le vene. In questo caso, per delle condizioni fisiologiche che si sono create o patologiche, il sangue tende a ritornare, a ristagnare nel testicolo. Quel ristagno finisce col determinare, per una serie di motivi sui quali è inutile adesso scendere nei particolari, questa alterazione di cui parlavo. Quindi questo è il varicocele che più ci interessa. a volte finisco, ci può essere un varicocele secondario che insorge in età adulta e che può essere secondario a una causa ostruttiva al deflusso venoso, e può essere una patologia di vario tipo, neoplastica o qualsiasi altra condizione flogistica grave che determina poi un ritardo del deflusso venoso. Antonella ci scrive: il mio ragazzo ha un varicocele ma non vuole andare a farsi fare il controllo dal medico perché non vuole operarsi. È sempre necessario operarsi in presenza di varicocele? Essere e benessere. È arrivato il momento del nostro consiglio di lettura e poi indicazioni per l'intervento, nel caso fosse necessario, per il varicocele e novità dalla sala operatoria. Qualche giorno fa abbiamo parlato delle numerose proprietà dello zenzero e allora grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Dall'aglio allo zenzero, curiosità, proprietà e virtù terapeutiche delle più comuni erbe aromatiche. Per ricevere a casa questo libro dovete mandare un'email a esserebenessere@radio24, titolo del libro, recapiti e numero telefonico. Naturalmente il libro arriva a casa del primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta. In collaborazione con IBS.it. Dottor Lapera, Antonella ci scriveva: il mio ragazzo non vuole farsi controllare nonostante abbia il varicocele perché non vuole fare un intervento. È sempre necessario l'intervento? Cosa si può dire? Allora, bisogna dire due cose su questa incertezza di questo ragazzo. Il primo appunto che non è sempre indicato, cioè ci sono delle condizioni che suggeriscono e consigliano di fare intervento. In particolare se il liquido seminale è alterato, cioè essendo, da quello che ho capito, dei ragazzi giovani, non c'è un tentativo di avere un figlio e quindi non c'è una prova biologica che effettivamente questo sperma è alterato, però sì, si può fare un esame del liquido seminale per vedere se ci sono già dei danni, quindi da quello questo può guidarci nel decidere se fare o non fare il trattamento. Sì. Un'altra indicazione può essere dovuta dal volume dei testicoli, che se sono ridotti, diciamo se uno dei due è ridotto, questa è un'indicazione a fare il trattamento. E poi naturalmente durante la visita possono emergere anche altri fattori. Certo. Per quanto riguarda invece l'intervento chirurgico, va detto che oggi non operiamo più. Proprio circa 20 anni fa oramai, proprio col professor Gentile, abbiamo messo a punto e inventato una tecnica tutta italiana che evita di fare il taglio addominale e consente, attraverso una vena del braccio, si introduce un tubicino e con una specie di prelievo venoso si raggiunge la zona delle vene dilatate e si inietta una sostanza sclerosante, tutto senza anestesia generale, per cui dopo il trattamento il paziente si alza e dopo poco può andare a casa. Quindi il trattamento oggi del varicocele non deve più fare paura, non è invasivo, per cui ci sono delle indicazioni. Non c'è quella degenza e quella ripresa, quella convalescenza che c'era prima, quando si faceva il taglio sull'addome e quindi si incideva la parete addominale, che doveva poi rimarginarsi e quindi portava via un po' di tempo e quindi era comunque sempre un intervento più invasivo. Questa è una tecnica meno invasiva che ormai in Italia si fa dal 1987-88 e abbiamo raggiunto dei numeri su questi cosi di numerose migliaia, insomma, quindi una tecnica oramai consolidata e collaudata. Do la parola ai nostri rutinariamente do la parola ai nostri ascoltatori. Devo dire che evidentemente gli uomini hanno bisogno di parlare dei loro problemi, di confrontarsi, di ricevere delle indicazioni. Tantissime le telefonate, torneremo naturalmente sul tema, ma Mario ci chiama dalla provincia di Salerno. Buongiorno. Buongiorno. Mario? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come dicevo, senta Mario, dovrebbe spegnere la radio? Però io a lei la sento bene, al dottore non tanto. Comunque, va bene. Io ho problemi di eiaculazione da 4-5 anni. Sì. Ho 60 anni e fino intorno ai 50, anzi ero precoce. Adesso non ho questo problema. Ho fatto diversi esami, tipo PSA, tipo... Cosa è venuto fuori, Mario? È venuto fuori che mi dice il mio urologo che si è abbassato di molto il testosterone. Mario, chiediamo i valori. Grazie Mario. Possiamo chiedere al professor Gentile. In questo caso, professore, che cosa si può fare? Sì, se ho ben capito, quindi, perché è stato improprio l'ascoltatore, ha detto ho circa 60 anni e soffro da un po' di tempo di eiaculazione precoce, fino a 50 ero precoce, voleva dire che era normale. Sì, immagino. Sì, in almeno questo caso appunto si tratta di un'eiaculazione precoce secondaria. Se vuole poi faremo la distinzione tra eiaculazione precoce primitiva e quella secondaria. La secondaria è quando c'è un periodo di normalità nella vita di un uomo e poi all'improvviso può presentarsi questo fenomeno, che può essere secondario a cause organiche come a infiammazione della prostata, prostatite o vescicolite. Oppure in alcuni casi potrebbe esserci un nesso tra un disturbo dell'erezione, per cui si finisce col complicarsi con una eiaculazione precoce, perché si instaura un meccanismo coscio o inconscio di finire il prima possibile, sì, per paura di perdere la rigidità. Quindi bisognerebbe capire esattamente come stanno le cose, perché nell'eiaculazione secondaria c'è possibilità di intervenire curando la causa che alla base, a certo, monte, quella difficile di cui magari parleremo poi, è l'eiaculazione primitiva. E poi bisogna anche capire cosa si intende per eiaculazione, e quindi vogliamo dare precoce rapidamente, siamo quasi in chiusura di trasmissione, queste indicazioni. Abbiamo detto che per quella secondaria, individuato le cause, ci sono le terapie e i trattamenti, per cui è un problema risolvibile. Mentre, professor Gentile, lei diceva la primaria? La primaria, la primitiva appunto invece è più difficile da curare, ci sono dei farmaci praticamente, anche se non sono presenti sul mercato farmaceutico come con l'approvazione e l'indicazione al trattamento dell'eiaculazione precoce, sono degli antidepressivi che si è visto che hanno un effetto collaterale positivo nel ritardare l'eiaculazione. Questi farmaci naturalmente vanno ad agire su una sostanza, la serotonina, che è coinvolta nella trasmissione del segnale eiaculatorio, sì, e quindi naturalmente con un'azione positiva, ritardante, rallenta il reflesso eiaculatorio e quindi incrementa il tempo che è necessario, che intercorre dalla penetrazione intravaginale all'eiaculazione. Queste sostanze sono gli antidepressivi inibitori del riassorbimento della serotonina e quindi danno una maggiore disponibilità, vengono abitualmente usati, hanno purtroppo quello che dicevo all'inizio, non sono indicati per l'eiaculazione perché vanno presi, hanno un'azione più lenta a instaurarsi e invece a noi serve un'azione rapida quando uno vuole avere un rapporto sessuale che agisca con rapidità sul sintomo, e possono dare gli effetti collaterali tipici degli antidepressivi, la sonnolenza e altri disturbi. Sta per venire fuori una nuova molecola, la dapoxetina, sì, che fa parte di questi farmaci, ma ha delle caratteristiche particolari. Agisce rapidamente, ha un metabolismo molto veloce, per cui viene eliminata nel giro di 4 ore, e potrebbe essere un farmaco che segna una svolta importante nel trattamento dell'eiaculazione primitiva. Allora, altre possibilità, sì, sono delle creme anestetiche che si usavano in passato, ma bisogna saper dire come vanno usate, o la riabilitazione del piano perineale per stimolare il controllo del riflesso eiaculatorio. Insomma, in questa trasmissione abbiamo avuto modo di dare diverse informazioni, molte informazioni, soprattutto io credo che con l'aiuto dei nostri esperti, del dottor Lapere e del professor Gentile, che naturalmente ringrazio, abbiamo mandato un messaggio, cioè questi problemi devono essere diagnosticati e la soluzione c'è. Il medico naturalmente, l'andrologo in particolare, riesce a risolverli, per cui è opportuno consultare il medico e consultarlo rapidamente. Professor Gentile, dottor Lapera, io vi ringrazio per essere stati con noi, dovrò invitarvi nuovamente perché le telefonate sono state davvero tante, il tempo a nostra disposizione però è sempre quello e quindi torneremo ad affrontare l'argomento. Grazie, grazie davvero. Abbiamo un 30 secondi per salutare Nicoletta Polla Matteo, condirettore di Grazia, il settimanale della Mondadori. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, noi abbiamo dato un incarico a Nicoletta Polla Matteo ed è quello di aiutarci a preparare questa letterina di Natale per il nostro, con consigli per il nostro benessere. Il tempo a nostra disposizione è terminato, per cui io saluto Nicoletta Polla Matteo ringraziandola, ma le do appuntamento a domani, in modo che continueremo con lei a scrivere la nostra letterina di Natale e con regali per il nostro benessere. Nicoletta, torni domani. D'accordo, a domani. Grazie, allora, arrivederci. Domani vi aspetto, come sempre, dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.